America, in the face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Vi proponiamo oggi un estratto della puntata con ospite in studio Federico Rampini in occasione dell'uscita del suo ultimo volume Slow Economy, Rinascere con Saggezza, edito da Mondadori. Dunque c'è un giornalista italiano che riesce a pubblicare, a far apparire nella sua bibliografia titoli come Il secolo cinese, L'impero di Cindia, L'ombra di Mao, La speranza indiana, e che in questo momento è in onorato servizio invece dall'altra parte, con la freccia messa dall'altra parte, ovvero negli Stati Uniti, dove è tornato ad essere corrispondente per la Repubblica, e avrete capito Federico Rampini, che torna in libreria con un titolo tra l'altro strutturato, complesso, di cui oggi parleremo insieme. Il titolo in questione è Slow Economy, Rinascere con Saggezza, tutto quello che noi occidentali possiamo imparare dall'Oriente. Esce per Mondadori e Strade Blu, e Federico è qui in studio con noi per parlarne, aiutarci a presentarlo. Grazie per essere qui, Federico. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno. Una lettura particolare, anche una lettura stimolante e di primo approccio piuttosto sorprendente, perché c'è naturalmente un'editoria compatta, forte, robusta, che si occupa di ripercorrere i fatti, gli eventi della crisi, e poi di analizzarne le cause, naturalmente di provare a intuirne la prosecuzione, il futuro, gli sviluppi, ma qui c'è un libro invece realizzato con un'ottica, un punto di vista diverso, prima di tutto con una visione circolare a 360 gradi basata sulla esperienza che Federico ha di universi diversi, ammesso che ancora si possa usare un'espressione del genere, ma che poi soprattutto ipotizza, andando un po' a frugare secondo me nella cultura popolare, o comunque nel condiviso, nella capacità che le persone hanno, senza poi porsi il problema di doverlo fare o del perché lo fanno, di cambiare il proprio modo di vivere, perché i tempi sono cambiati, le offerte e le richieste si sono modificate e si cominciano a fare altre cose. Di tutto questo e di molto altro parla Slow Economy, Rinascere con Saggezza, quindi un dopo crisi, un dopo bomba, se possiamo dirlo, analizzato con un occhio molto sereno da Federico. Allora, io ti comincerei a chiedere Il fattore personale, che tra l'altro nel libro è assai presente, no? Tu hai questa esperienza professionale, esistenziale, che ti ha fatto rimbalzare tra corrispondenze in Oriente e in Occidente, San Francisco, Pechino, New York e poi molte altre che so hai attraversato, e hai messo quindi a confronto in diretta, no? Anche con i tuoi problemi quotidiani, i due modi di vita. È un po' questo il punto di partenza da cui ti sei mosso. Sì, è vero. È un libro che in fondo è molto poco un saggio e molto, in qualche senso, autobiografico, perché l'ho scritto in un tornante particolare della mia vita, quando ho chiuso un capitolo di 5 anni di vita in Asia, prevalentemente a Pechino, in Cina, ma anche con lunghi periodi trascorsi in India. Sono ritornato negli Stati Uniti, in un'America che non avevo mai smesso di frequentare, ma che nel momento del trasloco ho percepito più distintamente per l'evoluzione dei rapporti di forza che c'erano stato, degli stili di vita, e quindi ho cercato di distillare le lezioni più preziose che mi sembra di aver imparato dalla vita in Asia, ricordi di viaggi, di esperienze non solo in Cina e in India, anche in altri angoli, dal Giappone al Vietnam. Ho cercato di fare quello che gli asiatici hanno fatto molto bene con noi negli ultimi decenni, cioè ci hanno studiato, ci hanno osservati, ci hanno qualche volta copiati, ma più spesso hanno fatto una sorta di apprendimento selettivo, cioè cercando di cogliere da noi quello che gli serviva, che poteva essergli utile, certo, integrandolo però in un loro sistema di valori. Ecco, credo che sia il nostro turno di adottare questa lezione di umiltà, di modestia, di curiosità, perché a questo punto la storia assegna all'Asia il ruolo della velocità. Per noi è giunto il momento della lentezza, però se è una lentezza che noi sappiamo usare, la slow economy può diventare una scelta, può diventare una scelta di qualità, una scelta di vita in cui in un orizzonte di crescita lenta della nostra economia possiamo operare velocemente dei grandi cambiamenti in termini di benessere sociale. Questa è l'idea che cerco È molto interessante, soprattutto in termini speculativi, perché in un certo senso nel fare questa proposta, nell'unirti alle altre persone che ci stanno ragionando, si apre, come dire, una sospirata via di fuga, no? una possibilità poi in fondo a strade di benessere anche in assenza di puntini, insomma tutto quello che segue. Ma vorrei rimanere proprio a questa idea dell'esplorazione del dopo bomba, no? Ci sono stati una serie di effetti collaterali e poi adesso si cercano anche questi metodi per rialzarsi e per condividerli, ma è interessante vedere come poi tutto è deflagrato, no? In un certo senso un anno fa, più o meno esattamente un anno fa, in modo rapidissimo, e ha, come dire, costretto soprattutto l'Occidente ad aprire gli occhi in modo repentino, non pensi? Sì, è stato un evento traumatico, forse non ancora sufficientemente meditato e metabolizzato, tant'è vero che in alcuni pezzi dell'economia o delle società occidentali ancora osserviamo dei comportamenti patologici e perversi. Penso alla bolla speculativa che è ritornata a esistere. In questo momento la speculazione si fa sull'oro, si fa su alcune materie prime, si fa su alcune valute e borse. Nel tuo libro tu insisti sul fatto che il lupo perde il pelo ma non il vizio, sì. Che per esempio chi ha percorso alcune strade di finanza malata, di rapporto, come dire, vizioso con il denaro, non ha smesso di farlo, no? Sì, c'è un bubbone, esiste ancora e temo che possa riesplodere facendoci del male. Nel frattempo però sotto traccia sono anche avvenuti dei cambiamenti, un inizio di cambiamento nel costume. Io lo osservo anche in America, quindi nell'epicentro della crisi, laddove certe perversioni del capitalismo, di un consumismo estremo, sprecone, distruttivo, stressante, aveva veramente accumulato delle tossine nell'organismo della società americana, stanno cambiando delle cose. Molto interessanti osservare come dall'Asia all'America io ritrovi dei percorsi di un consumo frugale che viene riscoperto anche da quelli che erano stati più malati, addicted si direbbe in inglese, tossicodipendenti del consumismo. Ecco perché tu nel libro a più riprese spieghi, illustri con esempi, fatti, aneddoti, che cosa significa, che cosa rappresenta, che cosa ha rappresentato fino a ieri sera praticamente il consumismo per gli americani, di padri in figli, di madri in figli, come si è trasmesso un po' alla volta nel DNA americano il gusto per l'avere, per il possesso, per lo shopping, e con tutto ciò che faceva, no? da altra faccia della luna di un'attitudine di questo genere, quindi il bisogno di guadagnare, l'incapacità di saper usare le merci in questione, l'accumulo come anche forma di nevrosi e sofferenza. Proviamo a capire come l'America sia diventato un paese così, da un posto di pionieri. Beh, è una storia lunga, nel senso che risale addirittura agli inizi del Novecento. In fondo, a un certo punto ha avuto una funzione progressiva il fatto che in America sia stato inventato il consumismo di massa. Pensiamo all'epoca in cui Ford mise in commercio per la prima volta nella storia delle automobili che i suoi stessi operai potevano comprare. Questo fu rivoluzionario, era quasi una forma di socialismo per quei tempi, no? Da quella è nata l'idea di una repubblica fondata sui consumi. Questo era uno degli elementi della Costituzione materiale degli Stati Uniti. La felicità della Costituzione era quella. Sì, poi però la sua degenerazione estrema è quella che è stato battezzato il capitalismo cheap, nel doppio senso: cheap a buon mercato, perché l'America è indubbiamente il paese dei discount, degli outlet, di Walmart, dove compri due, paghi due, compri tre, paghi a volte paghi due e compri 10, talmente è abbondante l'offerta. Ma del chissà del se ti servono, però. Non ti servono. Poi ecco appunto il capitalismo cheap vuol anche dire scadente, vuol dire una cosa veramente di poca qualità. Ed ecco che adesso gli americani si accorgono, dopo aver perseguito quell'American way of life che era fatta di villette nei suburbs, nei sobborghi residenziali, col garage, la cantina, la soffitta, piene di oggetti inutili, inservibili, comprati in un'orgia di inebriante, no? di ipnotizzati da queste offerte speciali della grande distribuzione, si accorgono di essersi riempiti a casa di oggetti scadenti che valgono pochissimo, che squalificano anche chi li produce, perché poi dietro l'oggetto cheap c'è anche un degrado della manodopera umana che li ha prodotti, oltre alla distruzione di risorse naturali. Per concludere, nel tuo libro, oltre a un capitolo apposito dedicato a una forza che nella tua analisi, secondo te, in Oriente oggi è moneta corrente, mentre da noi lo è assai meno, che è l'ottimismo, no? Però devo dire che in chiave più personale, tua, di osservatore, tira un vento di lieve, ma insomma, educato ottimismo. La nottata sembra che possa passare, probabilmente i costumi, forse a causa di quello che è accaduto, modificarsi, ma poi insomma è possibile continuare a vivere con una certa percentuale di serenità, forse addirittura di felicità, ma le cose non saranno probabilmente più le stesse, così? Non devono più essere le stesse, ma io credo, in fondo il metodo che utilizzo in Slow Economy è un po' paragonabile a quello di certe arti marziali asiatiche, in cui non importa se si è piccoli, magri, si può sempre utilizzare la forza, la statura e il peso dell'avversario. No? Questo è uno dei segreti dell'arte marziale orientale, quasi sempre. Tra l'altro una di queste è la pratica proprio Obama, il taekwondo coreano. Ecco, quindi andare adesso tocca a noi andare a appoggiarci su certe forze dell'Asia, certe risorse, ivi compreso il loro ottimismo, la loro energia, la loro fiducia nel futuro, e cercare di farne tesoro per capire invece in uno scenario nostro di slow economy, di crescita lenta, come possiamo velocemente cambiare delle scelte di qualità, riorientare i nostri consumi, ma anche quelle scelte che possono portare i giovani italiani che cercano un lavoro a dirigersi verso le attività del futuro più promettenti. Che cosa possiamo fare nel campo dell'ambiente, in che misura possiamo anche noi stessi di nuovo diventare un modello, perché ci sono all'interno della società europea, dal nostro welfare state a certe conquiste nel campo dell'ambiente, la Germania che è il numero uno nell'energia solare al mondo, la Danimarca che è il numero uno nell'energia eolica. Abbiamo tanti piccoli laboratori esemplari di eccellenza che dobbiamo imparare a rivalutare, a rilanciare, perché possono fare scuola. Bene, tutto questo è solo una parte di ciò che trovate normalmente nel saggio che Federico ha appena mandato in libreria. Vi ricordo ancora il nome, Slow Economy, rinascere con saggezza, tutto quello che noi occidentali possiamo imparare dall'Oriente. Grazie a Federico per averci aiutato a presentarlo, a parlarne. Grazie a voi. If you want my love, if you want my love. Buongiorno America. In questa seconda parte riascoltiamo l'intervista al giornalista Ennio Remondino, che ci presenta il suo ultimo libro Niente di vero sul fronte occidentale, da Omero a Bush, la verità sulle bugie di guerra, Rubettino editore. Ascoltatemi, amici romani, concittadini. Io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il male che l'uomo fa vive oltre di lui. Il bene sovente rimane sepolto con le sue ossa, e sia così di Cesare. Vabbè, ma insomma, che ci fanno fondamentalmente nel nostro programma, nell'ordine, Vittorio Gassman, Marco Antonio, William Shakespeare, Giulio Cesare e compagnia cantante, verrebbe da dire, lo capirete tra poco, perché oggi parliamo di un libro che ci è piaciuto e il cui autore è qui al nostro fianco, e vedrete che a un certo punto arriva pure Giulio Cesare. Benvenuto a Ennio Remondino. Buongiorno. Che attualmente è corrispondente esteri Rai dalla sede di Istanbul dei Balcani, ma che soprattutto, buongiorno Ennio, buongiorno a tutti voi, che soprattutto si deve prendere subito una qualifica, del resto semi auto attribuita, anche a questa arriveremo più tardi, giornalista incontrollabile, quindi buongiorno a un giornalista incontrollabile. Quei pochi che restano, dai. Va bene, dunque Ennio ha scritto, poi parleremo dell'incontrollabilità di Ennio, ha scritto un libro intitolato Niente di vero sul fronte occidentale, edito da Rubettino, sottotitolo Da Omero a Bush, la verità sulle bugie di guerra. È un libro con per tutto un timbro, un tono proprio che ci ha particolarmente, piacevolmente sorpreso, e ci è piaciuto all'aria di raccontare un po' a memoria, diciamo così, di essere sia testimone di prima mano, oppure di andare a citare cose ampiamente compulsate, anche cose capitate 2000 anni fa, ha però Ennio l'aria di raccontare la storia del mondo in buona sostanza, in un numero di pagine non eccessivo, siamo sotto le 200 pagine, con una finalità precisa, sottolineare, mettere in luce il fatto che tra quello che è successo e come viene raccontato esistono le differenze che con la modernità, con il contemporaneo si vanno accentuando e stanno assumendo addirittura un ruolo principale, centrale, se non motore della questione, secondo me con molto scorno, un certo scorno degli storici. Ecco, partiamo un po' da qua, per esempio, come ingresso alla presentazione del tuo libro. Come te la metti con gli storici, quelli che dicono noi raccontiamo le cose solo attraverso un preciso metodo? Ma non sfido gli storici, perché non ne ho gli strumenti, osservo soltanto che la storia dell'umanità ci è raccontata attraverso una successione infinita di guerre, e la mia esperienza sul campo e anche un minimo di studi che ho condotto sulla materia mi dicono che la condizione di guerra è una condizione che impone la bugia, impone la parte politica che sceglie. Mai vista nella storia dell'umanità una guerra che fosse una guerra di massacro, una guerra incivile, una guerra ingiusta. Nascono sempre giuste da qualunque parte poi le gestisci, e alla fine l'obbligo per la parte militare di ammazzare e distruggere più e meglio, quindi di ingannare sia il nemico sia l'opinione pubblica interna. Da quello che dici, le guerre nascono giuste e muoiono soprattutto aggiustate, nel senso che poi chi vince fondamentalmente la confeziona, no? Sostiene il tuo libro, attraverso una verità che verrà poi tramandata e forse diventerà addirittura oggettiva, così? Esatto, questo è un modo, anche se ovviamente giusta tra virgolette, perché è venduta come giusto, ovviamente anche il peggior despota Hitler cercava lo spazio vitale per la Germania, non certo ha proposto il massacro e l'olocausto degli ebrei, quindi c'è l'inganno di partenza, l'ideal politik, ecco, la chiamano oggi gli strateghi, e poi la realpolitik di chi ammazza più e meglio e vince poi il conflitto. Dopodiché la storia se la racconta chi vince. Prima di arrivare ad alcune considerazioni di Ennio, che come sapete, conoscete, soprattutto come avete visto, perché dagli schermi televisivi abbiamo imparato a conoscerlo con le sue corrispondenze dalle aree di crisi, ma prima di arrivare al presente, alcune considerazioni relative, mi piacerebbe invece fare un giro indietro, no? nella parte, poi tra l'altro forse anche più ampia del libro, che Remondino dedica a provare a rianalizzare alcune storie che noi abbiamo più o meno tutti appreso sui libri di scuola, dove alcuni personaggi hanno assunto una statura che tu per esempio metti in discussione con una certa determinatezza. Alcuni sì. Giulio Cesare, uno per tutti, che abbiamo citato in apertura. Beh, Giulio Cesare ci picchia, ha sicuramente vinto tutte le sue guerre, ma ci ha insegnato una bella cosa. Lui le guerre se le faceva, se la raccontava, detto un po' alla romana. Voglio dire, il Debello Gallico era anche una di quelle traduzioni più comode, meglio Cesare che Cicerone, per le mie memorie lontane di liceo, ma sicuramente come racconta i Galli lui, ecco, mi piacerebbe andarne a discutere col povero Vercingetorige. Coi Galli. Sì, coi Galli. E quindi, insomma, è chiaro, sempre il vincitore che racconta la sua guerra. Giulio Cesare è stato calcolato, produsse nelle guerre combattute le sue legioni, produssero più di 1 milione di morti, che in una condizione di abitanti dell'area in allora veramente molto poco popolosa, è un bel massacro, certo. E con gli schiavi che vendette realizzò un guadagno iperbolico. Questi sono dati che, se vai a spulciare nei testi consacrati dagli storici, li hai, soltanto che non vengono mai estrapolati. Perché? Perché la guerra... Perché? Proviamo a dare un accenno di risposta. Perché non si applica un senso critico adeguato rispetto all'analisi dei conflitti, anche arrivando poi ovviamente questo traspare in maniera più evidente nelle guerre recenti, perché abbiamo un riscontro. Tanto stiamo con Giulio Cesare ancora ai confini tra storia e leggenda, certo. No? Omero, vabbè, è proprio leggenda completamente... Via via che gli strumenti di documentazione, le tracce scritte degli eventi si fanno più consistenti, consentono a noi così attuali di fare dei riscontri. Ovviamente si va un po' più all'incirca. Perché? Perché tutta la storia di Roma è una storia di conflitti e di guerre. C'è una bellissima frase di Schumpeter che racconta come Roma, la grande potenza di Roma, e aveva sempre una buona ragione per fare una guerra, certo, e se non c'era la buona ragione se l'ha inventata. La trovava, certo. In sostanza, quello che sostiene il tuo libro è che quello che più tardi, in tempi recenti, è stato denominato, classificato eurocentrismo, quindi vedere il mondo da un punto di osservazione con tutto ciò che ne discende, non solo per il piacere di avere un punto di osservazione, ma quel punto di osservazione poi ha delle caratteristiche, dei filtri, delle griglie di visione ben precise, è in realtà una specie di vizio che noi quasi inconsciamente continuiamo a avere nel DNA, anche noi che stiamo parlando qui oggi o nel nostro paese, insomma. Sì, con questo eurocentrismo che oggi si è spostato oltre le sponde atlantiche e mutuiamo una serie di considerazioni attraverso le guerre preventive modello Bush, ad intenderci. Certo. Denoti un certo pessimismo sull'andamento delle politiche internazionali occidentali, ma soprattutto sul ruolo poi dei media, che in un certo senso si fanno i regolatori, no, del tutto, i manipolatori, se vogliamo usare una parola eccessiva. Nei conflitti io ho inventato in altra circostanza una frase: le guerre in televisione nascono orfane e muoiono sempre senza figli. Adesso a tradurre, non c'è mai un racconto prima che ti anticipa la crisi che si prepara, poi c'è l'enfatizzazione del conflitto perché è eroico, è colorato, è televisivo, fa ascolto, è ascolto gratis. Certo. Dopo la guerra, mai un racconto dopo, perché vai a scoprire le bugie. Certo, se vado certo. a raccontarti il Kosovo liberato con la guerra umanitaria a cui l'Italia ha partecipato attivamente, e la bugia, la balla raccontata allora, diventa plateale. Allora zitti, escluso. E questo è accaduto in Afghanistan, come è accaduto in tanti scenari di guerra, voglio dire l'Iraq, eccetera, eccetera. Salvo che non limitiamo il giornalismo ad andare dietro alla presenza militare italiana, che bravi ragazzi, certo che sono bravi ragazzi, rischiano anche la vita, spesso muoiono, troppe volte muoiono, quindi grande solidarietà nei loro confronti, ma l'insieme del fallimento della missione internazionale in Afghanistan, che in 8 anni è riuscita a far diventare i cattivi talebani quasi degli eroi, non esce fuori. Certo. Per concludere, in pochi secondi, per mantenere la promessa fatta in apertura, insomma, chi ha detto, personaggio particolare, chi ti ha affibbiato questa qualifica, credo gradevole, di incontrollabile? Beh, gradevole per l'orgoglio, sicuramente scomoda per la carriera. Karel Köker è stata la più grande spia della Guerra Fredda, un cecoslovacco arruolato dal KGB con la missione di infiltrarsi nella CIA. Si riuscì nell'intento, fu grande dirigente della CIA, passando ovviamente le sue informazioni al KGB. Io fu catturato alla fine Ebbi la fortuna di incontrarlo, di intervistarlo e poi lo utilizzai come producer, pensati, per investigare in Russia con lui accanto. Un lusso. Sì, era un vero lusso. E diventammo amici e alla fine lui aveva questa questo incarico di dare sintesi agli operativi, i veri 007 da film. Che caratteristiche ha? E un po' per vanità chiesi, ma tu come mi definiresti per la CIA? Chi sono io? Dice, calma, ci devo pensare. E alla fine mi disse, incontrollabile. Da lì capì che le mie prospettive di carriera non diventerai nel giornalismo erano belle che definite e chiuse. Bene, incontrollabile Ennio Remondino ha scritto comunque questo libro che ci è piaciuto, vi segnaliamo, Niente di vero sul fronte occidentale, Romero Bush, la verità sulle bugie di guerra, edito da Rubettino. Grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a te. E questa è la puntata di oggi di Buongiorno America. L'abbiamo vista, osservata attraverso gli occhi di un inviato speciale, magari con un taglio differente, ma anche a questo servono le puntate monografiche che vi stiamo offrendo in questo periodo. Ci risentiamo naturalmente sempre qui su Radio 24. State tutti bene.